Cari fratelli e sorelle, oggi vogliamo meditare uno dei grandi vescovi del IV secolo, San Basilio, definito dai testi liturgici bizantini un luminare della Chiesa, a cui guarda con ammirazione tanto la Chiesa d'Oriente quanto quella d'Occidente, per la santità della sua vita, per l'eccellenza della dottrina e per la sintesi armonica di doti speculative e pratiche. San Basilio nacque attorno al 330 in una famiglia di santi, vera chiesa domestica che viveva in un clima di profonda fede. Compì i propri studi presso i migliori maestri di Atene e di Costantinopoli. Insoddisfatto dei suoi successi mondani e accortosi di aver sciupato molto tempo nella vanità, egli stesso confessa un giorno, come svegliandomi da un sonno profondo, mi rivolsi alla mirabile luce della verità del Vangelo e piansi sulla mia miserabile vita. Attirato da Cristo, cominciò a guardare verso di Lui e ad ascoltare Lui solo. Con determinazione si dedicò alla vita monastica nella preghiera, nella meditazione delle Sacre Scritture e degli scritti dei padri della Chiesa e nell'esercizio della carità, seguendo anche l'esempio della sorella Santa Macrina, che già viveva nell'ascetismo monacale. Fu poi ordinato sacerdote e infine nel 370 vescovo di Cesarea di Cappadocia, nell'attuale Turchia. Mediante la predicazione e gli scritti svolse un'intensa attività pastorale, teologica e letteraria. Con saggio equilibrio seppe unire insieme il servizio alle anime e la dedizione alla preghiera e alla meditazione nella solitudine. Avvalendosi della sua personale esperienza, favorì la fondazione di molte fraternità o comunità di cristiani consacrati a Dio che visitava frequentemente. Con la parola e con gli scritti, molti dei quali sono giunti fino a noi, li esortava a vivere e a progredire nella perfezione. Alle sue opere hanno attinto anche vari legislatori del monachesimo antico, tra cui San Benedetto, che considerava Basilio come il suo maestro. In realtà San Basilio è uno dei padri del monachesimo, ma creato un monachesimo molto particolare, non in monasteri chiusi dalla comunità della Chiesa particolare, ma la particolarità del suo monachesimo è che il monachesimo fa parte della vita della Chiesa particolare, è solo il nucleo della Chiesa locale, quasi animando tutta la Chiesa, precedendo nella vita della seguita di Cristo e non solo nella fede, mostrando la ferma fede in Cristo, l'amore per Cristo, ma soprattutto anche in opere di carità. Questi monaci avevano scuole, ospedali, erano in servizio dei poveri e hanno così mostrato l'integrità della vita cristiana. Il Santo Padre Giovanni Paolo II ha scritto, circa il suo monachesimo, si ritiene da molti che quella struttura capitale della vita della Chiesa, che è il monachesimo, sia stata posta per tutti i secoli principalmente da San Basilio, o che almeno non sia stata definita nella sua natura più propria senza il suo decisivo contributo. Come vescovo e pastore della sua vasta diocesi, Basilio si preoccupò costantemente delle difficili condizioni materiali in cui vivevano i fedeli. denunciò con fermezza i mali, si impegnò a favore dei più poveri e dei marginati, intervenne anche presso il governante per alleviare le sofferenze della popolazione, soprattutto in momenti di calamità, vigilò per la libertà della Chiesa, contrapponendosi anche ai potenti per difendere il diritto di professare la vera fede. A Dio che è amore e carità, Basilio rese una valida testimonianza con la costruzione di vari ospizi per i bisognosi, quasi una città della misericordia, che da lui prese il nome di Basiliade. Questa città della misericordia, costruita da lui, sta alle origini delle moderne istituzioni ospedaliere di ricovero e cura dei malati. E come era sempre preoccupato per realizzare la carità che è il contrassegno della fede, così dall'altra parte la liturgia sta nel centro della sua vita. Basilio fu un sapiente riformatore liturgico e ci ha lasciato una grande preghiera eucaristica che da lui prende il nome e ha dato un ordinamento fondamentale alla preghiera e alla salmodia. Per suo impulso il popolo amò e conobbe i salmi e si recava a pregarli anche nella notte. E così vediamo come liturgia, adorazione, essere in preghiera con la Chiesa e la carità vanno insieme, condizionano una cosa l'altra. Con zelo e coraggio Basilio seppe opporsi agli eretici, i quali negavano che Gesù Cristo fosse Dio come il Padre, e similmente contro coloro che non accettavano la divinità dello Spirito Santo, egli sostenne che anche lo Spirito è Dio e deve essere con il Padre e il Figlio connumerato e conglorificato. Così proprio uno dei grandi padri che hanno dato e formulato la dottrina sulla Trinità, su questa unità dell'unico Dio, che tuttavia, perché è amore, Dio in tre persone che formano questa unità più profonda che esiste, l'unità divina. Nel suo amore per Cristo e per il suo Vangelo, il grande Cappadocio si impegnò anche a ricomporre le divisioni all'interno della Chiesa, adoperandosi perché tutti si convertissero a Cristo e alla sua parola, forza unificante alla quale tutti i credenti devono ubbidire. In conclusione, Basilio si spese completamente nel fedele servizio alla Chiesa e nel multiforme esercizio del ministero episcopale. Secondo il programma da lui stesso tracciato, egli divenne, cito da uno dei suoi libri, apostolo e ministro di Cristo, dispensatore dei misteri di Dio, araldo del regno di Dio, modello e regola di pietà, occhio del corpo della Chiesa, pastore delle pecore di Cristo, medico pietoso, padre e nutrice, cooperatore di Dio, agricoltore di Dio, costruttore del Tempio di Dio. È questo il programma che il Santo Vescovo consegna a noi, consegna soprattutto agli annunciatori della parola, un programma che egli stesso si impegnò generosamente a mettere in pratica. Nel 379 Basilio, non ancora cinquantenne, consumato dalle fatiche e dall'ascesi, ritornò a Dio, nella speranza della vita eterna attraverso Gesù Cristo, Signore nostro. Lui era un uomo che ha realmente vissuto lo sguardo fisso a Cristo e così era un uomo dell'amore per il prossimo e piena della speranza, della gioia, della fede e ci mostra come essere realmente cristiani. Grazie.